Non sono i problemi di famiglia che generano l'ansia. Sono sempre strutture nostre interne attraverso cui vediamo le cose che ci generano ansia. Per esempio, faccio un esempio. Ci sono persone che hanno dei fratelli, ne capita. Capitano addirittura cose così. Allora, magari io ho un fratello, o anzi ho una sorella, facciamo prima, che ha un figlio. E mia sorella ha un carattere che non mi piace per niente. E ritengo che l'educazione che lei dà a questo bambino non vada bene. E io cerco di dirglielo. Il risultato che ottengo è che lei peggiora un po'. Poi glielo dico di nuovo, non vedo nessun cambiamento. E io cosa faccio? Perché io non posso risolvere, non riesco a risolvere il problema, perché lei dovrebbe cambiare, io come faccio? Posso mica cambiare il cervello. Allora vengo da te, psicologo, e dico, come si fa a cambiare il cervello di mia sorella? E tu mi mandi da un neurologo e dici, fai un trapianto. Vai a vedere, costa troppo, non lo posso fare. E poi non è detto che te lo lasciano fare. E quindi cosa puoi cambiare? Puoi cambiare soltanto te. Tanto prima cosa devi renderti conto che non è figlio tuo, figlio di tua sorella. Cioè, lei l'ha concepito insieme a un uomo che non sei tu, l'ha tenuto nella pancia circa 9 mesi, dopodiché l'ha nutrito con tutte le sue emozioni, già prima di concepirlo, poi dopodiché esce un bambino che avrà le sue caratteristiche, perché è nato lì. Quindi è parte di quel sistema. Tu da fuori, che vivi una cosa completamente diversa, dici, però non va bene. Vengo io a metterci il riparo. Tu che da fuori non ci puoi fare niente. E allora comincia a stare male. E stando male, diventando ansioso per questo bambino, tu credi di fare una buona cosa, perché ti senti un'anima bella e buona. Invece sei un bello stronzo. Perché? Se lo lasci in pace e stai sereno, e quando lo vedi ti comporti serenamente, questo bambino di tanto in tanto incontra una persona che ha delle vibrazioni buone, dei buoni sentimenti. E questo bambino, perché i bambini scemi non sono, quando vedono la zia o lo zio che ha determinate caratteristiche, lo respirano, se lo portano dentro, lo mettono in un particolare archivio, dopo vivo con la loro madre. Poi vedono lo zio, recuperano, mettono nell'archivio e vanno via. Poi quando vanno da grandi, vanno allo psicologo, il psicologo magari fa una diagnosi e dice, c'è qualcosa che non mi torna. Tu mi hai parlato dei tuoi problemi, dovresti essere almeno borderline. Come mai se quasi c'hai un io ancora sano? E ti accorgi quasi sempre che l'io ancora sano è dovuto al fatto che almeno una persona che ha frequentato era una persona sana, col quale si era creato un legame affettivo. Ma questa persona sana non ha cercato di cambiare la sua mamma. Perché l'unica cosa che ottieni cercando di cambiare la sua mamma è la resistenza di sua mamma. E interferire in un sistema che non è il tuo. Allora se ti senti buono perché fai questo, ti senti buono come certi parlamentari che prendono delle decisioni per salvare la loro anima e mandano il paese alla rovina. In realtà tu non stai facendo la buona azione. Facendo la buona azione se tu sei nella qualità dell'essere, ami questo bambino e ami anche tua sorella. E se ami tua sorella anziché criticarla, è possibile che lei risenta di questo tuo amore, di questa tua mancanza di giudizio, e che gentilmente tua sorella un giorno dice, senti un po', ma cosa potrei fare in questo caso? Te lo chiede lei. E se te lo chiede lei, tu dici, no, non lo so proprio, ma forse, chi lo sa, se tu, ma non lo so. Allora tua sorella magari si incuriosisce e dice, ma... Non è che, no, non lo so proprio, non ho la minima idea. Ma una volta mi è capitato, visto mentre ero in autobus, c'era una persona che leggeva un libro su questo, glielo suggerisci. E allora lei lo prende e magari lo legge, ma perché tu non hai fatto pressione. Okay? Allora, questo ti ho fatto un esempio di come si può generare l'ansia in famiglia. Vorrei che mio padre e mia madre fossero diversi, mia sorella fosse diversa.